agosto di 3 anni fa. Amore, ti ricordi, che fatalità. Il sole era alto, noi due sulla spiaggia. Mano nella mano, passeggiavamo lungo e largo. Nessuno mai avrebbe detto che tutto questo sarebbe successo. Nessuno mai avrebbe detto che noi due saremmo stati insieme. Passa in fretta, ma l'amore sa attendere. E nonostante tutto, è come un fuoco ardente. La distanza è molta, ma io vivo in allegria. Amore e tutto il resto è fantasia. Nessuno mai avrebbe detto che tutto questo sarebbe successo. Nessuno mai avrebbe detto che noi due saremmo stati insieme.